Quindi se vuoi andare insomma, il numero che vuoi dire è stato il volume, il signor Vai, se vuoi segnare, se in letto ci lei ha blatti. La sua linea è un'espressione, non è un numero che vuoi davvero dire. Il mio succedetto ora solo di offmene e il mio sciobin. Io ho detto, spara a me, spara a me, spara a me, spara a me, spara a me, spara a me, spara a me, spara a me, spara a me, spara a me, spara a me. Это был открытый вызов. Он поклялся бородой Аллаха, что не успокоится, пока не сбросит евреев в море.